proprio grazie a questa canzone, gli Editors con Blood, canzone che fa parte del loro primissimo album, molto bello. Abbiamo diverse volte così pensato che loro sono un po' cresciuti con i primi U2, con anche un po' i Joy Division, visto che la voce del cantante degli Editors è praticamente uguale a quella di Ian Curtis, anche se lui durante l'intervista ha fatto un po' il furbetto, ha detto: chi? Ragazzino, prendi in giro una che potrebbe essere tranquillamente, non dico tua madre, ma insomma una zia, eh? Lui ci ha provato, però noi ovviamente non gli abbiamo creduto. Ma a proposito di grandissimi personaggi, parliamo di un uomo che non mi vuole sposare, io ormai me ne devo fare assolutamente una ragione. Parliamo di Billy Idol. Certo che se Billy Idol è stata molto bella l'intervista, no? Perché insomma il discografico di Billy Idol, sapendo questa mia forte passione, ha detto: Claudia, però mi raccomando, cioè nel senso, si sciolta naturale. C'è una statua. Quando Billy Idol ha detto "Hi, nice to meet you", si è trovato davanti una deficiente con la faccia così, in silenzio, proprio naturale, sciolta, bella, tranquilla. Vabbè, comunque Billy Idol sta per pubblicare, attenzione attenzione, tipo il 25esimo best della sua carriera, The Very Best of Billy Idol, Idolize Yourself. Ci sono ben due inediti in questa raccolta, il primo è New Future Weapon e l'altro è John Wayne, scritte queste due canzoni con Steve Stevens, ormai grandissimo collaboratore di Billy Idol. Ma attenzione, perché Billy Idol, in occasione di questo best, di questa raccolta, sarà in giro, sarà in tournée dal prossimo 22 giugno, farà diverse date in America e poi, attenzione, arriverà in Europa anche per i festival. Quindi Billy torna in Italia, giuro che questa volta non rimarrò lì impalata come una deficiente, ma magari cercherò di dire ciao, dai, vieni in Italia. Noi stiamo passando veramente un periodo difficile, brutto, e tu potresti fare qualcosa per noi, soprattutto per me potresti fare qualcosa, speriamo, speriamo. Intanto ritroviamo quest'oggi Billy Idol con Don't Need a Gun. It's a red hot love on a red star flight. As she seems so cold, it echoes in the room. All the twisting tongues that are after you. Stop! Cioè, per questo uomo io sono anche scappata di casa. Stavo studiando in Germania, in una delle vacanze un po' così. E a Monaco, no, a Colonia c'era il concerto. In realtà non era proprio di Billy Idol, ma c'erano i Cult, c'erano Simple Minds. No, allora, era il concerto di Simple Minds, di supporto. C'erano solamente Billy Idol, i Cult, e c'era questa band anche che negli anni 80-90 andavano molto bene. Si chiamavano Transvision Vamp, andavano molto bene perché c'era questa gnoccolona bionda che cantava, non peraltro. E mi ricordo che la famiglia presso la quale io studiavo mi ha detto: ma no, assolutamente non ti lasciamo andare a questo concerto, è una responsabilità troppo grande. Ovviamente io con la lacrima ho detto: ma come? Ma no, ma non esiste, vi prego, vi prego, vi prego. Esco un attimo e vado a prendere un pezzo di pane e arrivo. E ovviamente sono andata al concerto, tornando tipo il giorno dopo ne ho prese tante, ma non sberloni, però insomma di urlate, di insomma conseguenze disastrose, però ne è assolutamente valsa la pena, perché per Billy Idol questo ed altro. Billy Idol con Donny the Gun. Allora uscirà nella seconda metà del mese di giugno questa raccolta, e sempre il 22 giugno partirà anche questa tour, questo tour americano, e poi ci sarà anche qualcosa in Europa. Speriamo che il ragazzo mi torni in Italia, così magari ci compra anche Rock FM. Ah, non è in vendita. Arrivano un sacco di messaggi, sono molto contenta. 335 100 7777. A proposito di grandi personaggi, anche il prossimo è il numero uno. E stiamo parlando di Zach Wilde insieme ai suoi Black Label Society, che riascoltiamo con Stillborn. Station in the world is Rock FM. questa è Riprendere Berlino dal loro nuovissimo album 1248. Saluto anche Marina di Genova, dice: io sono arrivata ora da Verona, ho acceso la radio e ci sei. Ma la cosa più buffa, Marina dice: ieri sera ti ho vista con Max, avrei voluto venire a salutarti ma era impossibile. Io non ero a Verona ieri sera, sarà stata una delle sue mille bionde, non ne ho la più pallida idea, però ti giuro che purtroppo non ero io. Cara Marina, però sarebbe stata divertente, dice: cioè, ciao Claudia, allora. Poi saluto, a proposito di Genova, Ema dice: hai tutta la mia approvazione per il mega Billy Idol, sono 20 anni che sbavo quando lo vedo. Eh sì, come ti capisco. Saluto anche Renato da Lucca: mi mancherà molto la vostra musica, ma ancora di più mi mancherete tutti voi. In questi giorni mi farò un tattoo e lo dedicherò a Rock FM per non dimenticare la radio più bella. Ma che carino, che carino. Pensa, anch'io stavo pensando di... È arrivato, io ogni... in diversi periodi dell'anno sento il bisogno di fare un tatuaggio e quindi il prossimo anch'io lo vorrei dedicare in qualche modo a Rock FM, non tatuandomi il logo o queste cose, perché non però sì, caro Renato, sì sa da fa. Saluto anche Metal Chef, dice: ma non c'è un ente fisico con cui poter sfogare la propria rabbia per la chiusura? Guarda, io la mia rabbia in questo periodo la sto sfogando in palestra con il sacco, con i corsi di fitbox. I poveri sacchi non avete idea di quante ne stanno prendendo. Quindi ti posso consigliare questo, Metal Chef. Ti giuro e credimi, serve, perché tu ne tiri tante, ma tante, tra calci e pugni. Dopo un'ora sei fisicamente sfinito, ma stai bene. Sì, assolutamente. Quindi guarda, questo è il mio consiglio. Poi saluto anche Dan76, dice: per il concerto di ieri sera c'è solo una parola: brividi. Grande. Poi qualcuno vorrebbe i nomi di coloro che chiudono la radio, così per due paroline e due gesti molto carini. No, assolutamente no. Saluto Massimo da Ravenna. Allora sì, fai un giro molto attento sul sito www.rockfamily.it, questo lo sai, clicca forum, cliccala se non sbaglio la prima delle diverse voci e lì cerca, vedrai che troverai tutte le informazioni di cui hai bisogno, assolutamente. Intanto continuiamo con la musica, stanno arrivando un sacco di messaggi, quindi per non fare come il DJ Edo che si incasina, che fa salutiamo. Faccio una piccola pulizia in modo da non far casino, appunto, e vi lascio con i Teardrops Down con la loro It's Not My Time. Now the current's only pulling me down. FM. Place, and now you got to freak me out. Scream so loud, getting fucking laid. You want me to stay, but I got to make my way. Hey, you're a crazy bitch, but you're so good. I'm on top of it when I dream. I'm doing you all night, scratches all down my back to keep me right on. Hey. You're a crazy bitch, but you're so good, I'm on top of it when I dream. I'm doing you all night, snatch it off down my back to keep me right on. Take it all, the paper is your game. You jump in bed with fame, another one not paid in full. You're so fine, it won't be a loss. Cash it in the rocks. Just to get you face to face. Hey, you're crazy bitch, but you're so good. I'm on top of it when I dream. I'm doing you all night. Stack this all down my back to keep me right on. Hey, you're crazy bitch, but you're so good. I'm on top of it when I dream. I'm doing you all night. Stack this all down my back to keep me right on. Crazy bitch, crazy bitch, crazy bitch. Hey, you're crazy bitch, but you're so good. I'm on top of it when I dream. I'm doing you all night. Scratches all down my back to keep me right on. Hey, you're crazy bitch, but you're so good. I'm on top of it when I dream. I'm doing you all night. Scratches all down my back. Grandissimo, grandissimo Josh Todd insieme ai suoi Buck Cherry con Crazy Beach. 12:58, in teoria ci sarebbe la pubblicità, ma così non possiamo cancellare la prossima canzone, anche perché non ci sentiamo di fare una cosa del genere a questi artisti che, poverini, negli ultimi mesi sono stati un po' sfigati. Sto parlando dei Pain. I Pain hanno fatto da supporto al tour europeo dei Nightwish. Allora, suonano in Germania, qualche problema tecnico durante il concerto, però vabbè, chi se ne frega, perché poi vai, cioè sei in Germania, vai a berti una birretta ed è tutto a posto. E quindi la band va in questo locale, non si sa per quale strano motivo, ma io la mia idea ce l'ho. I ragazzi così hanno un piccolo battibecco con degli altri ragazzi all'interno di questo pub, la cosa finisce ammazzate, abbottigliate, compagnia bella. Quindi due tre date vengono annullate, però poi il tour continua e quindi loro si devono spostare in Germania con il loro tour bus, ma la polizia li ferma, li fa scendere dal tour bus, gli perquisisce qualsiasi cosa con tanto di cani, e ci sono delle foto bellissime, se non sbaglio proprio sul sito dei Pain, di loro seduti su marciapiedi senza calzini, senza scarpe, proprio trattati veramente da criminali e poverini. E esperienze che sicuramente ricorderanno per i prossimi mesi. Pain, allora, progetto di Peter Tettgren, cognome difficilissimo da pronunciare, comunque grandissimo personaggio già all'interno degli Hypocrisy, o Hypocrisy, un po' come volete. Questa è Zombie Slam. Something coming, crawling, parlando di uomini che amo, parlando ovviamente a livello musicale, beh, tra questi c'è sicuramente... Ma non riesco a parlare quest'oggi, aiuto, c'è sicuramente anche Eddie Vedder, volevo dire, con Eddie Vedder, grandissimo, Pearl Jam, riascoltati con Jeremy, Eddie Vedder poi quando mi ha fatto quella colonna sonora meravigliosa per il film Into the Wild, se già lo amavo tanto, adesso ancora di più, grande, grandissimo, veramente un genio. Allora, saluto il Joker del database, un bacione, dice, torno da una riunione di 2 ore, bella la riunione, però senza Rock FM no. Ho visto Billy Idol all'Heineken. Belin sarà in forma, ma assolutamente sì, negli ultimi anni si è rimesso in forma, non beve, non fa più uso di droghe, quindi corre un'ora al giorno. Sportivo, bello. Saluto anche Barbara e dice: ti scrivo per una dedica, non le faccio mai, ma questa volta devo fare 1000 auguri di una felice vita rock and roll alla piccola Ilaria nata lunedì. Assolutamente, guarda, ci uniamo anche noi ai tuoi auguri per questa piccolina. Saluto anche Mirko da Firenze, dice: a proposito di bella musica, si sono rimessi insieme Beehive, quelli di Kiss Me Licia, primo concerto 3000 persone. Ma io mi chiedo, queste 3000 persone non avevano proprio un cazzo da fare, eh? Nel senso, con tutte le cose che ci sono da andare a vedere. Tra l'altro li ho visti ospiti, adesso non so quale trasmissione in televisione. Che tristezza. Che tristezza, ma veramente tristezza infinita. Ai tempi mi facevano tenerezza, li guardavo più che altro per ridere. Perché si sa, cioè, io spero che non siano mai stata una stati seri come band. Adesso veramente mi fanno un po' pena i ragazzi. 3000 persone addirittura. Bah. Gibson dice: certo che tu e Edo siete la migliore coppia on the air. Sì, guarda, noi ci divertiamo un sacco e sono felice se anche gli ascoltatori che ascoltano si divertono. Saluto anche Franz, un bacione. Roberto da Firenze dice: grandi Kiss e grande pubblico. Su Kiss Online c'è scritto: audience in Verona was one of the best ever at the Kiss concert. E io c'ero, dice Roberto da Firenze. Beato te, beato te. Tiziano da Livorno, un bacione. Saluto Motopazzo, dice: io ho un biglietto in più per il concerto dei Kiss il 24 giugno. Beh, guarda, se vuoi, se proprio insisti, io ti posso accompagnare, senza problemi. A proposito di tatuaggi, io mi farò tatuare la barba di Ariel sul fondo schiena. Ciao Marina, un bacione. Poi, a proposito di tatuaggi, Marco dice: io non ho tatuaggi, ma è arrivato il momento. Che ne pensi di condividere il disegno, chiaramente con l'avallo della famiglia? Ma perché no? Si potrebbe studiare qualcosa di carino, ovviamente dedicato a Rock FM. Io sono per le scritte, più che per loghi, disegni, quindi una bella scritta ci sta, ci sta. Ad esempio, a proposito di idee intelligenti, saluto Lallù, dice: potresti tatuarti un bel radiolone gigante sulle tette come Travis Barker. Ma perché no, ve lo ricordate? Lui era quello dei Blink 182, quello tutto tatuato, quello pieno, cioè, è completamente tatuato. E ha questo mega stereo, se non sbaglio. Ma non l'aveva sul collo lui? Se non ricordo esattamente, però... Un giorno mi ricordo che stavo guardando delle sue foto su una rivista, mi ero persa a guardare i tatuaggi, perché alcuni sono veramente orrendi, altri invece molto belli. Però non male l'idea. La bella scollatura e poi via. Una cosa molto femminile, molto fine. Allora, continuiamo con la musica, adesso vi lascio con i Paradise Lost che ascoltiamo con The Last Time. I only wish that it passes through. questi erano assolutamente bei tempi per i Paradise Lost, quest'oggi con The Last Time, poveri Paradise Lost, volevo dire, oggi cosa mi succede? Non lo so, sarà l'allergia, aiuto, sto dicendo poveri Paradise Lost, li ho visti l'ultima volta di supporto agli Him, con tutto rispetto per gli Him, per il loro pubblico, però i Paradise Lost secondo me in quell'occasione c'entravano veramente poco, anche perché ho visto, sicuramente c'era anche qualche fan dei Paradise Lost e tutto, però posso anche tranquillamente dire che nelle prime file, giustamente, perché era un concerto degli Him, c'erano solo ragazze che aspettavano Villevalo e che dei Paradise Lost gliene poteva fregare de meno, ma proprio de meno, e loro poverini lì a sbattersi, ma secondo me questa cosa alla fine del tour l'hanno capita anche loro. Però cosa vuoi fare? Allora, sei in una band, è il tuo lavoro, devi portare a casa la pagnotta, non sono più i bei tempi. La tua carriera va così e così, non male, però non va nemmeno benissimo. Ti offrono di fare da supporto a un tour degli Him, quindi è garantito, ma è sicuro come l'oro, che tu tutte le sere suoni davanti a tantissima gente. Poi vabbè, a questa gente gliene può fregare di meno del tuo concerto, insomma, la maggior parte. Però questi sono dettagli, quindi via, si accetta. Grandi Paradise Lost mi hanno fatto veramente tanta, tanta tenerezza. Carini, carini. Quest'oggi trovati con The Last Time, adesso un classicone, ma assolutamente sì. Sono i Doors, questa Love Me Two Times. Love me two times, baby. Love me twice today. Love me two times, girl. I'm gone away. Love me two times, girl. One for tomorrow, one just for today. Love me two times, I'm gone away. Love me one time, do not speak. Love me one time, yeah, my knees got weak. Love me two times, girl. Last me all through the week. Love me two times, I've gone away. Love me two times, I've gone away. Could not speak. Love me one time, baby. Yeah, my knees got weak. Love me two times, girl. Last week, all through the week. Love me two times, I'm gone away. Love me two times, baby. Love me two times. proprio orgogliona delle mie scelte. Ho scelto bene in questo caso, perché Monster Magnet non avevano un singolo ufficiale, ho detto scelgo io. Eccolo, Wall of Fire, bella questa canzone, bella potente, sono tornati veramente alla grande. Mi sono molto felice anche perché il cantante aveva passato un periodo proprio del razzo. Adesso sta bene. Saluto Ronin, dice ciao amore di Claudia. Io sono pieno di tattoo tradizionali giapponesi, che figata. Volevo tatuarmi il nome e la data di chiusura della radio per portarvi con me per sempre. Questa è un'ottima idea, in realtà anche io ho pensato al nome ovviamente e alla data di chiusura. Bella, bella, come idea te l'appoggio un sacco. Sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì. Anche perché insomma ha fatto e farà parte della mia vita, ma soprattutto per questi 15 anni. Quindi anch'io pensavo assolutamente il tattoo ci sta. Poi è arrivato il periodo, oddio, poi con l'estate non è tanto periodo, però vabbè, è arrivato il momento. Saluto Andre da Genova, dice ieri l'Ariel ha quasi pianto in diretta perché nessuno passa la cover dei Pay dei Ramones. Mi ha mai invitato a cena o a pranzo il DJ Ariele? Mi ha mai pagato un panino o un caffè? Mi ha mai fatto qualche favore? No, allora non vedo perché. No, scherzo, non è vero, io una volta l'ho passata, dai, dopo la mettiamo così almeno la smette di piangere in diretta. Scendi, ieri sera l'arena esplosa e Paul Stanley resta sempre the best, Dio quanto era bello, dice. Sì. Poi, ma che fine ha fatto Al Johnson, detto il cantante pazzo? Lo conosci? No. Ma soprattutto esiste o è un parto della mia fantasia? Qui non ti so aiutare. Saluto anche la Scuta Sister numero uno, Ellie, dice mi pare che te l'abbiano già chiesto in mille, ma non so la risposta. Come arrivo da voi? Guarda, Rock FM si trova in via Locatelli numero 1, 20124 Milano, vicinissima alla stazione centrale di Milano. Ovviamente. In centrale ci arrivi con la verde, sotto la radio c'è la fermata Repubblica, linea gialla, quindi è molto semplice, raggiungibilissima con i mezzi, c'è il 33 che si ferma qui davanti, almeno ai tempi si fermava il 2, sto parlando di tram, e poi un altro, non ricordo il numero. Saluto anche Luca da Milano, ma non hanno preso spunto da Caught in a Mosh degli Anthrax? Ma chi? Se non capisco di chi stai parlando. Saluto anche Patente 1688, sei assolutamente carinissimo, questo messaggio è molto bello. Teo dice, grande Claudia, anni che non scrivo ma vi seguo, una delle ultime volte ricordo l'Ariel darmi del cretino in diretta, che carino Ariel, dice, dopo avervi scritto che lo stesso Ariel aveva detto la mattina a Rock TV che tu ci avevi provato col cantante del Nino, l'avevi letto giustamente, avevi sbroccato, inimitabili. Beh, io non ci ho mai provato col cantante del Nino, gran bel pezzo di Figliolo, assolutamente, però non ci ho mai provato, anche perché so che è molto fidanzato, quindi molto simpatico, però no, non ci ho mai provato. Ora B-52's, questa Funplex. I'm a pleasure seeker, shopping for a new distraction. I'm a pleasure seeker, looking for some platinum action. I'm a pleasure seeker, moving to the music. Tiki Hut, I'm your daytime waitress, here's your stupid 7-Up. You kick my heart going up and down the escalator. You blew me up and now you've lost the real thing. Yes, you did. ormai è diventato inconfondibile. Ma svolta con Walk Simulacra, tra l'altro sento spesso e volentieri gente che si lamenta dei prezzi dei concerti, e in occasione dei Mars Volta ho visto anche gente che dopo tipo un'ora e mezza ha detto basta, me ne vado, questi non smettono più. Mannaggia, invece ce ne fossero di band appunto come i Mars Volta che non suonano un'oretta scarsa, ma anzi che vanno avanti. Loro hanno suonato tantissimo, io non li ho visti in concerto, però mi hanno detto che hanno suonato qualcosa come 2 ore, forse anche qualcosina in più. Grandi Mars Volta, appunto. Arrivano diversi messaggi molto molto carini, tra poco li leggiamo, siamo in mega ritardo anche con la pubblicità, mamma mia, quest'oggi è proprio una giornata un po' così. Vabbè, intanto continuiamo con i Submersed, ci riascoltiamo con l'ultimo singolo, questa Better Think Again.